Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Le sere seguenti, ella smise di occuparsi dei fatti miei. Non si accostava più a interrogarmi quando io sfogliavo l'Atlante, ma si capiva che questo libro era diventato per lei un oggetto d'avversione, di diffidenza e al tempo stesso di odiato fascino. Evitava di toccarlo e solo a guardarlo da lontano i suoi occhi si turbavano, come fosse il libro delle parche o un trattato di magia nera. Se a volte, per caso, per una ragione o per l'altra, mi capitava di pronunciare queste parole, l'anno prossimo, vedevo di colpo le sue pupille fissarsi, simili a due ospiti impaurite, immobili davanti a una soglia che non vorrebbero oltrepassare. E intanto io, di giorno in giorno, meditavo di andarmene subito, senza aspettare l'anno prossimo. Così avrei fatto vedere senza indugio se ero un guaglione o se sapevo partire solo e di che cosa ero capace. Sul punto però di lasciare l'isola, come sempre mi avveniva fino dalla fanciullezza, un incanto disperato mi tratteneva là. Le diversità meravigliose dei continenti e degli oceani che ogni sera sull'Atlante la mia fantasia adorava, d'un tratto sembravano aspettarmi, di là dal mare di Procida, come un immenso paesaggio d'indifferenza agghiacciante. Lo stesso che allo scendere della sera mi scacciava dai luoghi estranei, dal porto, dalle strade, richiamandomi alla casa dei guaglioni. E mi era insopportabile il pensiero di andare via senza prima rivedere mio padre almeno ancora una volta. Pure, in certi momenti, mi pareva quasi di odiare William Gerace. Ma appena prendevo la risoluzione di fuggire da Procida, subito il ricordo di lui invadeva tutta l'isola come una moltitudine insidiosa, affascinante. Lo riconoscevo nel sapore dell'acqua di mare, della frutta. Passava lo strido di un gufo, di un gabbiano, e mi pareva lui che mi chiamasse. «Ehi, Moro!» Il vento autunnale mi buttava addosso degli spruzzi o delle folate di sabbia, e mi pareva lui che mi provocasse scherzando. A volte, scendendo alla marina, mi sembrava di avere un'ombra alle spalle che mi seguisse. E fantasticavo, quasi lusingato, è una spia privata che segue i miei passi per conto di lui. Poi, in mezzo a queste illusioni strane, mi accadeva più che mai di odiarlo, perché, come un invasore, si impadroniva a questo modo della mia isola. Ma pure sapevo che l'isola non mi sarebbe piaciuta tanto se non fosse stata sua, indivisibile dalla sua persona. Si era a metà dell'autunno e mio padre ancora non si rifaceva vivo. La matrigna sperava sempre che egli tornasse a casa per l'epoca che doveva nascere il bambino. Durante la prima settimana di novembre, essa mi diceva ogni sera «Chissà che domani non arrivi tuo padre». Poi, col passare dei giorni, non disse più nulla. Ma sull'ora che il piroscafo da Napoli attraccava giù al porto, quasi furtiva andava a mettersi dietro la finestra spiando se la famosa carrozzella apparisse dall'imbocco della via. Secondo il calcolo suo e delle comari, il mio fratellastro avrebbe dovuto nascere sui primi di dicembre. Invece fu, inaspettato, la notte del 22 novembre. Thank you. Le comari, che in quei giorni frequentavano più del solito casa nostra, se n'erano andate verso sera, come sempre, e dopo cena io e la matrigna c'eravamo ritirati a dormire, senza nessun pensiero. Ma di notte tardi, doveva essere circa l'una, mi riscosse dalla stanzetta di Nunziatella un gemito cupo, più bestiale che umano, interrotto da urla di un'angoscia tale, mai prima udita, che ancora mezzo addormentato, io di impeto corsi alla stanzetta e ne spalancai l'uscio. La luce era accesa e Nunziatella, tutta spettinata e discinta, giaceva di traverso sul lettino dal quale aveva buttato via le coperte. Al vedermi, convulsamente le raccolse e le tirò su di sé, ma subito ricadde stravolta, con un urlo simile a quelli da me uditi poco prima, in cui la sua voce era irriconoscibile, e prese a dibattersi bestialmente e miseramente, mentre i suoi occhi ogni tanto si fissavano verso di me senza nemmeno chiedermi aiuto, ma quasi scacciandomi dalla stanzetta. «Che hai? Che hai?» le gridai in modo brutale. Non avendo un'idea precisa dei necessari patimenti delle donne, stavo davanti a quella scena come davanti a una tragedia misteriosa, e il mio primo sentimento fu un impulso di odio verso quel prepotente mistero che straziava Nunziatella. Essa, a questo punto, ebbe un riposo momentaneo e mi volse un piccolo sorriso pieno di vergogna, ma insieme di importanza. «Non è niente», cercò di spiegarsi. «Ma tu non devi stare in questa camera. Bisognerebbe chiamare qualcuno, chiamare Fortunata». Fortunata era la mammana di Procida. Le sue parole si interruppero in un nuovo urlo e l'angoscia le strappò dalla faccia il dolce sorriso, tramutandolo in una severità inumana. Nel suo dolore scomposto, essa lacerava con le dita uno scialletto di lana, fermato da una spilla da balia che teneva sulle spalle per la notte. Ed io, nel momento stesso che lasciavo la stanza per uscire in cerca di soccorso, ebbi a quel suo gesto un ricordo repentino. La povera Immacolatella, che durante il travaglio dell'agonia ogni tanto faceva l'atto di lacerarsi il corpo con i denti. Erano passati ormai quasi 2 anni da quel giorno amaro che Immacolatella era stata sotterrata, ma lo spettacolo della sua fine mi stava impresso nella memoria in ogni particolare. E siccome io non avevo ancora mai veduto morire nessuna creatura umana, quella rimaneva la mia unica esperienza della morte. Ora, mentre scendevo a precipizio le scale, fui attraversato da un sospetto, anzi da una certezza orribile. Mi pareva di ravvisare, nella matrigna, molti segni di quella medesima angoscia estrema che aveva condotto Immacolatella a finire sottoterra, presso il carrubo, e credetti di intendere che lo stesso male di cui erano morte mia madre e Immacolatella stava per uccidere stanotte anche quest'altra femmina. Delle suggestioni infantili si impadronirono di me. Quasi mi aspettavo di incontrare l'ombra della Amalfitano che si aggirasse per i corridoi cantando con una voce melodiosa di basso i suoi tragici ritornelli. E provai sgomento al dover lasciare la mia matrigna sola nella casa senza nessuna difesa contro quell'assassino. Mentre attraversavo di corsa le straducole addormentate, mi pareva di essere in un teatro tumultante in cui molte voci mi gridavano questa parola odiosa: «La morte! La morte!» Mi arrestai prima al palazzo del dottore, che sorgeva in prossimità della piazzetta, e mi detti a tempestare il portone come un bandito, ma alla fine una voce di donna, da dietro una persiana, mi rispose malamente che il dottore era partito per Napoli. E allora non mi restò che proseguire verso la contrada di Cottimo, a circa 3 chilometri di distanza, dove abitava Fortunata, la mammana. Avevo degli antichi motivi di avversione e di sospetto verso questa donna, e la necessità di ricorrere a lei mi contrariava come un presagio maligno. Ma tuttavia, non essendovi altra scelta, correvo all'impazzata verso la sua dimora, temendo che ogni istante di ritardo potesse essere fatale alla vita di Nunziatella. Thank you. Esercitava Procida la sua professione di mammana da più di 30 anni. Fra le partorienti assistite da lei c'era stata anche mia madre, ed io le addossavo la colpa di non avermela salvata e disprezzavo l'opinione dei procidani, fra i quali essa godeva fama di grande maestra nella sua arte. Le sue mani, enormi e scure, mi parevano le mani di una omicida, e il conoscere che essa mi aveva tratto alla luce e aveva inoltre con opportune istruzioni guidato agli inizi il mio balio silvestro, non bastava a riconciliarmi con lei. Essa, fra tutte le donne dell'isola, era forse la sola che non avesse mai degnato di alcuna considerazione le voci popolari, affrontando imperterrita il maleficio di casa Gerace. Ma neppure questa non mi pareva una prova speciale di merito da parte sua, perché, sebbene portasse le vesti, lei non si poteva annoverare propriamente fra le femmine. A vederla attraversare il paese con la sua borsa professionale sotto il braccio, col suo gran passo a gambe larghe, marziale e tuttavia trasandato, la si sarebbe detta un qualche soldataccio della flotta turca, reincarnatosi in funzione di mammana. Era di forme così alte e grosse che a malapena passava per l'usciolo di casa sua, e vicino alle altre donne pareva una gigantessa. Di pelle era alquanto mora, e sul labbro le cresceva un poco di baffi, perfino dei peli di barba sul mento. Aveva piedi e mani enormi, denti lunghi e irregolari, e una voce sgraziata, cupa piuttosto rauca. Portava gli occhiali e sempre lo stesso abito di fustagno scolorito, a grandi fiorami. Solo, d'inverno, copriva quest'abito con uno spolverino di un colore fuliginoso, e alla domenica si metteva sulla testa un velo ricamato sotto il quale pareva ancora più brutta. A causa della sua bruttezza non aveva mai trovato nessuno con cui maritarsi e viveva sola in una casetta di una stanza. Credo che non impiegai più di 10 minuti per arrivare alla casa di Fortunata, che di solito è un percorso di mezz'ora almeno. Mi detti a picchiare alla porticina con i pugni, con i calci, e la mammana non tardò ad affacciarsi alla finestra con una mantelluccia buttata sulla camicia da notte. «Corri subito», le dissi in tono d'imperio. «A casa nostra c'è una donna che sta male assai!» «E guaglio, sei uno solo e ti credevo una banda», essa borbottò con la sua voce cavernosa. «Una donna! Sarà Nunziata che si vuole sgravare, chi altro dovrebbe essere questa femmina vostra? Va bene, aspettami un minuto e vengo.» «Fa presto!» le comandai di nuovo. Indi, mentre ella si ritirava dalla finestra, le gridai dietro con accento carico di odio e di minaccia: «E adesso, non t'ubriacare! Se t'ubriachi, guai a te!» Poi mi stesi sul muricciolo, premendo la faccia contro la calcina rugosa, con un sentimento di sconsolata miseria. Il bel paesaggio, e lo stellato, e la mia isola, mi apparivano di un tratto amari, scostanti, perfino schifosi, perché non avevano pensieri per quella stanzetta che di qua non si scorgeva nemmeno, isolata laggiù nella casa dei Guaglioni e che era importante solo per me. Là, durante tutto quest'ultimo anno, ogni notte, custoditi sotto le palpebre come due gemme preziose in uno scrigno, avevano dormito due occhi neri di regina, che sapevano dire la confidenza e l'adorazione e l'onore di servirmi e di essere parente. Ma adesso io rivedevo l'angoscia che mi era apparsa poco prima in quegli occhioni, così severa, troppo sterminata per la loro ignoranza, e mi ridissi con orrore: «Certo, è la morte!» La mammana riapparve sull'uscio, pronta con la sua solita borsa sotto l'ascella, e con un salto io scesi giù dal muricciolo. Nell'avviarsi, dopo aver indirizzato verso l'interno della casupola al suo gatto un saluto zuccheroso e pieno di cerimonia, ella scrutò il cammino della luna, corrugando la fronte occhialuta, e sentenziò, discorrendo per conto proprio secondo la sua maniera usuale: «Buone ore queste per le creature, maschi e femmine. I Guaglioni nati dopo la mezzanotte di primo mattino crescono belli, fortunati e in buona salute, e le femmine in buona salute e costumate». Poi, piuttosto soddisfatta, prese a marciare sulle sue scarpacce di corda che non davano suono, risoluta e ribalda come la figura di un boia. I miei occhi, pieni di disgusto, caddero sulle sue mani, che alla luce della luna apparivano più nere, enormi, e per risparmiarmi la sua vista, io corsi avanti a lei di un buon tratto, procedendo rapido da solo. Ogni tanto mi rivoltavo a sorvegliare che mi seguisse e non se la svignasse, magari per i giardini e i vicoli, e le gridavo in tono minaccioso: «Su, cammina!» Ma giunto al termine del paese, in cima alla lunga salita dopo la piazzetta, ebbi in cuore una scossa. A distanza, in alto, era apparsa la casa dei Guaglioni, con le finestre da quel lato tutte spente, e pareva una visione antica e abbandonata, come se già non vi fosse più nessun vivo dietro le sue mura. Thank you. Il portoncino era aperto e il lume acceso nell'androne, come io li avevo lasciati uscendo. Appena fui sulle scale, udii dal piano di sopra il gridare di una creatura appena nata. La voce di lei non si udiva più, e arrivato alla soglia della stanzetta, vidi per prima cosa lei di spalle stesa immobile sotto le coperte e il letto macchiato di sangue. Pensai, è finita. E credo che la mia faccia divenne terrea, mi sentii mancare i ginocchi. In quel momento il pianto della creatura, che aveva coperto il rumore dei miei passi, si quietò un poco, ed essa dovette avvertire la mia presenza. Levò appena appena la testa girandola verso di me. Era pallida, ma viva, e un sorriso di segretezza e allegria favolosa le trasfigurava la faccia. «Artù!» mi disse. È nato Carminiella Arturo. Costui riprese a gridare. Io gli gettai un'occhiata, ma lei se lo teneva accosto al corpo sotto la coperta, così che intravidi soltanto una testolina biondastra. Con voce debole, confusa e ansiosa, essa intanto mi allontanava dal letto e dalla stanzetta e mi richiedeva di Fortunata, e io ritornai giù a precipizio incontro alla vecchia. «Avanti, corri!» La rimbrottai fieramente, scontrandola che arrivava nell'androne. «Tu viaggi col treno merci!» Risalito di sopra dietro alla vecchia, io, dal corridoio dove mi ero fermato, ebbi il tempo di vederla che, appena entrata nella stanzetta, subito essa faceva per prendere su dal letto il guaglione. Ma Nunziatella, quasi volessero rubarglielo, pronta lo difese con il braccio e gettò su di lei uno sguardo geloso e torvo. «E di che avete paura?» fece la mammana prepotente con i suoi modi sommari e militareschi. «Non ve lo guasto mica!» Allora Nunziatella rise, vergognandosi, e lo cedette. A questo punto io, stomacato dalla vista di quell'essere appena nato che strillava con la bocca senza denti, mi ritrassi dal corridoio nella mia camera, ma lasciai però l'uscio socchiuso, in modo da udire quanto avveniva di là, perché sospettavo che la vecchia, con le sue mani di boia, potesse ancora fare qualche male a Nunziatella o addirittura ammazzarla. Un paio di volte mi giunse la voce di Nunziatella che le dava istruzioni, ma così bassa e indebolita che a malapena distinsi le parole. Quanto a colei, secondo il solito, si esprimeva soltanto con autorevoli borbottii oppure oracoli pomposi. E la sola persona con cui si compiacque di conversare fu il fratellastro. Intesi che, per lavarlo e vestirlo, essa si portava con lui in una camera fuori uso, che è proprio di rimpetto alla stanzetta, così che, attraverso gli usci spalancati, Nunz dal suo letto poteva assistere all'operazione. E mentre lei, nel letto, aspettava il momento di riavere vicino a sé il ragazzino, la vecchia di là, nell'accudirlo, pareva tenere con lui una specie di conferenza privata, come se soltanto con lui si intendesse e le restanti persone della famiglia non fossero altro che comune tappezzeria. «Voi», gli diceva la sua grossa voce in accento cerimonioso e affascinato, «dovete pesare di sicuro più di 4 chili. Siete bella assai, proprio un bel maschio». E a queste parole si udì la vocina di Nunziata dalla stanzetta ridere tutta compiaciuta. «E che belle carni!» seguitava a dire nell'altra camera la mammana. «Voi siete un colosso, siete una festa di rose e fiori, e siete uscito solo con la bravura vostra, da voi stesso, bello bello come un coniglio. che voi vi imparerete a camminare da voi stesso e le femmine si impazziranno d'amore per voi e canterete come il tenore Caruso. Che bei capelli che già vogliono fare i ricci e tenete già i cigli intorno agli occhi. Per comparire vi siete già adornata la bellezza vostra. Voi parete una rosa ricamata d'oro. E che belle coscette, che bel culetto tenete. E come vi chiamate? Dall'altra stanza la vocina rispose per lui: Carmine Arturo. Ah, così, con due nomi vi chiamate. Eppure io mi chiamo con due nomi, Fortunata ed Emanuella. Ma lui, precisò dall'altra stanza la vocina con qualche enfasi, si chiama pure Raffaele Vito. Qua io, sentendomi morire dalla stanchezza, mi distesi e mi addormentai. Un paio di volte nella notte mi ridestò il gridare prepotente della creatura, ma udendo subito in risposta il bisbiglio di Nunz, mi riaddormentai contento nel pensiero che essa era viva. Quel bisbiglio, portato al mio uscio socchiuso dall'aria silenziosa, mi si faceva assai vicino, da sembrarmi che fosse sul mio guanciale. Verso l'alba mi giunse da un giardino di fuori il canto di un galletto, e allora, senza aprire gli occhi, fra un dormiveglia indovinai l'isola che si schiariva, incominciando dall'ultima striscia del mare, fino alle spiagge di Rena con i monticelli di alghe diacce. E diversi colori delle case, i bei giardini pieni d'aranci, di limoni e di dalie. Poiché Nunz non era morta, anelavo di tornare a correre vittorioso sulle mie terre, come un gran valvassore che abbia riavuto il suo feudo. Il mio corpo si lasciava contento al sonno, ma il mio cuore aspettava l'ora di alzarsi con un misto di allegria, di consolazione e di curiosità. E nemmeno allora io non capivo nulla. Non sapevo prevedere i dispiaceri, il tormento che già gli altri giorni futuri mi preparavano. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.